romantica la trama della lana, sul mare regna sovrana, dolce un po' puttana, ma quando arriva la madama mi nasconde sempre sotto la sua sottana. C'hai i filigrana, il porto porta soprana, mi culla la tramontana, perla rara, color del vento e delle rose, mille aurore, vestita di tulle, stracci e pietre preziose, in balia del vento, tra amore e risentimento, non comprendo lo spazio tra via del campo e il ghetto stretto, da un profumo che arriva da lontano, madrina di tutto quello che risulta strano. Cresta tra monti e mare, nelle vene vento e sale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Cresta tra monti e mare, risacco maestrale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Cresta tra monti e mare, nelle vene vento e sale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Cresta tra monti e mare, risacco maestrale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Pelle di sette specie omologata fuori dal gregge, ferita dalle schegge del legno delle golette, le altre belle mal confronto inerte, la lanterna a salvare sul mare navi e coscienze, alla foce alle erbe, stronza fasi alterne, quando sono lontana la prima delle mie scelte, via signorile infette, strette tra mari e vette, grida lei superba, genovesi via le grette, persa tra mille volti, baratti, ingaggi, linguaggi, dove il sole del buon Dio non dai suoi raggi, la guardo dal mare, mi rapisce, mi protegge, anche da fuori legge, salsedine e carezze. Cresta tra monti e mare, nelle vene vento e sale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Cresta tra monti e mare, risacco maestrale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Cresta tra monti e mare, nelle vene vento e sale, resta solo superbo, una fiaba da raccontare. Cresta tra monti e mare, risacco maestrale, resta